tornà, voglio avere come tempo poi arruffa tutte le colori in da via e giro la città e vaga a cercare occhio come oliva nero che guarda senza parlare terra che non va voglio tornare in arrivo in sua città guarda il ritmo tocca non si ferma mai voglio avere non è più una tua foca che sta innamorata da papà non ti può sbagliare e che sarà forte si fa sentire e dolce così per chi viene può trovare la scusa perché vorrei stare e mo che io stava con me ma io non mi scordo mai sole che brucia umanamente acqua che scende. Voglio tornare.